Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Gorizia artificieri al lavoro per il disinnesco di 3 bombe d'aereo ritrovate nei pressi della stazione transalpina, una replica di quanto era successo nello scorso luglio, ma con un impegno maggiore dal punto di vista logistico. Tema in primo piano in questa edizione, nella quale ci occuperemo anche della giornata ecologica a Casarse Valvasone e delle iniziative a Trieste per il cervello scende in piazza. Ampia naturalmente la pagina sportiva, nella quale spicca il biathlon con l'attesa per l'ultima gara di Coppa del Mondo. Elisa Vittozzi a un passo dalla conquista del trofeo. 12 e quasi 16 minuti, ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Daniele Lettige. Partiamo dunque da Gorizia, la giornata del disinnesco in territorio sloveno di 3 ordigni della Seconda Guerra Mondiale, 3 bombe d'aereo ritrovate durante i lavori alla linea ferroviaria. Sentiamo come stanno andando le operazioni, che hanno visto anche un migliaio di persone sul versante italiano lasciare le loro case per motivi di sicurezza. Una gru sta al momento ricoprendo di sabbia la bomba più piccola delle 3 ritrovate sotto la stazione di Nova Gorica, che però è la più insidiosa. Gli artificieri sloveni devono interrarla in una buca profonda 6 metri e ricoprirla anche di covoni di fieno prima di farla esplodere in sicurezza. L'ordigno è stato trovato infatti con l'innesco danneggiato, dunque sono necessarie cautele maggiori che per la neutralizzazione delle altre 2 bombe ritrovate. Queste sono di fabbricazione britannica, sono più grandi e saranno messe in sicurezza tra poco per essere poi spostate nel poligono di Piuka in Slovenia e fatte brillare nei prossimi giorni. Poco più di 1000 gli abitanti di Gorizia che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nell'arco di 600 metri dalla piazza transalpina. 2300 invece sono sfollati fino alle 14 a Nova Gorizia. Stamattina, proprio pochi minuti prima delle 9, l'orario di chiusura della zona rossa, in tanti si sono messi in macchina. Molti stanno passando la mattina al mare o in gita o a pranzo da parenti. Tra loro abbiamo incontrato anche un'anziana che quelle bombe le vide cadere durante la Seconda Guerra Mondiale. Nessuno invece è andato al centro di raccolta messo a disposizione dalla Protezione Civile e dal Comune nella sede della Polizia Locale di Gorizia. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E come avete sentito, c'è anche una testimone diretta che vide cadere le bombe oggi ritrovate a Gorizia in fase di disinnesco. Una donna che le vide cadere appunto più di 80 anni fa. Sentiamola. Nel 1943, quando sono cadute quelle bombe, io ero qui perché noi avevamo l'albergo alla Transalpina e era stato fatto un bunker, il ristorante era pieno. E io, mia sorella, mio zio siamo usciti, abbiamo visto le bombe che sganciavano per centrare la stazione, abbiamo cominciato a urlare fuori, sono scappati fuori dalle finestre e siamo arrivati dentro nel bunker, non siamo neanche riusciti a chiudere la porta, che era grossa di cemento, è scoppiata proprio in cima e scoppiata al lato. Da Malnisio a Giais, passando per il poligono di Cao della Brigata Ariete, questo è il percorso della 26esima Via Crucis della Pace che si svolgerà nel pomeriggio dalle 14. La manifestazione è organizzata tra gli altri da Beati Costruttori di Pace, Centro Balducci, Comunità di San Martino al Campo. Il poligono di Cao Malnisio è da anni osteggiato dal movimento pacifista ma anche dagli ambientalisti che segnalano l'alto livello di inquinamento nella zona. Fiume Veneto ospita la lucciolata finale di primavera organizzata dall'associazione Via di Natale di Aviano, che si occupa di ospitalità per chi è in cura al CRO e di ricerca contro il cancro. A partire dalle 17.30 il centro sarà chiuso al traffico per ospitare i 2000 partecipanti attesi e consentire la camminata di 2 km lungo le vie del paese. Volontari all'opera tra Casarse e Valvasone per salvaguardare la natura, una giornata ecologica trascorsa raccogliendo rifiuti abbandonati nell'ambiente. Quando passano con le macchine gettano fuori dai finestrini e la gente è sempre meno educata. Plastica, lattine, persino ombrelli raccolgono di tutto i volontari e le volontarie lungo i fossi, in mezzo ai campi, per le strade del paese, impegnati già dalla mattina a raccogliere rifiuti abbandonati in occasione della giornata ecologica promossa dall'assessorato all'ambiente del comune di Casarsa della Delizia con le associazioni locali. Oggi è anche una bella giornata, ci siamo trovati tra associazioni azioni, che è anche bello tenere pulito il territorio, poi tra amici si può anche ridere, dire due battute, scherzare e teniamo anche pulito. Domenica ecologica, intercomunale anche tra Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento, protagonisti i più piccoli. Dobbiamo pensare al nostro paese, a tenerlo bene e quindi si parte già dai bambini più piccoli, insegnare questa cosa così importante. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quando sono da poco passate le 12:20, il tempo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, le temperature delle 11. Trieste 13,5 gradi, Gorizia 18, Udine 17, Pordenone 16 gradi, Tolmezzo 15 gradi, a Forni di Sopra 12,5, Tarvisio 11, Piancavallo 8,5, Sappada 7, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 5 gradi, sulla costa a Lignano 15 gradi e a Grado 14. Secondo l'ARPA nel pomeriggio avremo nuvolosità variabile, venti di brezza sulla costa, domani cielo da nuvoloso a coperto con deboli piogge più probabili ed estese dal pomeriggio. La pagina della cultura, Medea di Pasolini compie 50 anni. Sul quel set nacque il legame d'amore, amicizia e dedizione tra il poeta e Maria Callas. A raccontarlo, insieme alla vita romanzesca della cantante, l'amore burrascoso con Onassis, gli scandali e i successi e il nuovo appuntamento di aperitivo con l'arte nel pomeriggio a Palmanova. Alle 17 alla polveriera Garzoni, un racconto live di Cristina Bonadei e Massimo Tommasini, accompagnati al pianoforte da Riccardo Morpurgo e da foto e video. A Pordenone entra nel vivo Dedica, che ha per protagonista lo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte. Alle 18 all'ex convento di San Francesco, la prima delle trasposizioni per la scena di uno dei suoi libri. Si tratta di Territorio Comanche, interpretato dall'attore Fausto Russo Alesi. A Trieste si conclude la manifestazione intitolata Il cervello scende in piazza, organizzata dall'associazione The Banfield. In piazza della Borsa una serie di iniziative che nel pomeriggio avranno come ultimo ospite l'enigmista Giorgio Dendi. Ha spaziato dagli esercizi di stimolazione cognitiva alla musicoterapia fino alle consulenze personalizzate, la rassegna organizzata per la prima volta dall'associazione The Banfield, che offre sostegno gratuito alle persone anziane e fragili colpite da decadimento cognitivo. Alta la partecipazione a Il cervello scende in piazza, al punto che già si sta pensando a una nuova edizione dell'iniziativa. Come spiega la responsabile comunicazione dell'associazione The Banfield, Esther Bianco. Stiamo pensando di portare avanti queste attività anche nel nostro quotidiano in associazione e poi in particolare l'anno prossimo la volontà è quella di ripetere questa esperienza in degli spazi ancora più grandi per poter accogliere ancora più persone. In mattinata nella tenso struttura allestita a Trieste in Piazza della Borsa sono stati proposti esercizi di stimolazione con realtà immersiva per allenare il cervello, imparando nuovi metodi per compiere azioni quotidiane e nel contempo divertirsi. Commenta il creative technologist Antonio Giacomin. Escono tutti con il sorriso, perché o li portiamo in un luogo lontano, in ambienti particolari, oppure fanno delle azioni che sembrano semplici, ma poi risultano molto complesse e poi sono soddisfatti del risultato. Ultimo appuntamento del ciclo, quello del pomeriggio con Giorgio Dendi, che darà nuovi stimoli al cervello proponendo delle magie matematiche. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine oggi è l'ultima giornata dell'ottava edizione dell'International Street Food. Le bancarelle di Piazza Primo Maggio hanno aperto a mezzogiorno e fino a mezzanotte sarà possibile assaggiare specialità italiane e straniere. Lo sport, il biathlon, l'appuntamento è alle 18:10 italiane, ultima gara del calendario di Coppa del Mondo sulle nevi canadesi di Kenmore. Partiranno tutte insieme le atlete, ma tutti gli occhi saranno puntati su Lisa Vittozzi e sulla norvegese Tandrevold. Le dividono 61 punti e la sappadina, dopo il successo di ieri, il secondo consecutivo, che le ha consentito di balzare in testa alla classifica generale, può controllare l'avversaria. Le basterà arrivare nelle prime 12 per conquistare il trofeo, un vantaggio non da poco che però l'azzurra non vuole considerare. Sentiamola. Sarà sicuramente una bella battaglia, mi giocherò le mie carte al meglio e vediamo. Comunque vada, sono contenta della stagione che ho fatto, ho fatto veramente una stagione d'oro per me e quindi mi vivrò il momento. Il calcio all'Udinese non è bastata la vittoria sul campo del Lazio per riprendere un cammino spedito verso la salvezza. Ieri la sconfitta in casa 2-0 con il Torino, fischiata dai tifosi. L'Udinese più brutta della gestione Cioffi, che sentiamo in questa intervista. Cos'è successo? Ti vorrei dire che lo so, ma non lo so. Quindi ho tempo. Abbiamo tempo per rifletterci, per rivedere la partita. Potrei dirti che la prima cosa che mi è venuta in mente prima della battuta è che abbiamo avuto praticamente 2 giorni, 1 giorno e mezzo per preparare la partita, perché giocando lunedì sera e poi sabato non hai tempo e quindi probabilmente questo calendario non ci ha aiutato, ma non te lo dico, perché non può essere solo quello. Credo abbiamo un modo di riflettere, di poi c'è la cosa principale, di lavorare, anche perché non ci sono costanti. Cioè, se te trovi una costante di questi up and down, ti cervelli e trovi una soluzione. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sempre per il calcio, in Serie C la Triestina giocherà alle 14 sul campo della Pro Sesto. Gli alabardati cercano di allungare la striscia positiva per risalire in classifica. Oggi sono al quinto posto, ma con due gare in meno. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico, grazie a Federico Comar e a Riccardo Ostojic. 12:25 minuti 30 secondi, prossima edizione 18:30. A tutti voi grazie per l'ascolto. Ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.